Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo tracciato con Carlo Alberto Campiotti, che è responsabile del servizio agricoltura dell'unità di efficienza energetica dell'Enea e che è ancora qui con noi. Buonasera Campiotti. Buonasera. Dicevamo che ieri abbiamo tracciato nella puntata di ieri sera le linee generali di un possibile programma di efficientamento energetico in agricoltura che porterebbe, riassumo, a un risparmio complessivo nel 2020 di oltre 3,5 megatep, cioè milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, corrispondenti circa al 20% dei consumi energetici del comparto agricolo, che più o meno sarebbe un 3,5% dei consumi nazionali, quindi insomma una fetta davvero consistente. Abbiamo anche visto che secondo l'Enea i certificati bianchi, ovvero i titoli di efficienza energetica, sono lo strumento più adeguato per favorire il raggiungimento di questo obiettivo. Allora stasera cerchiamo di capire un po' più nel dettaglio quali sono proprio le possibili soluzioni da mettere in pratica per aumentare l'efficienza dell'agricoltura, che dovrebbero poi essere proprio finanziate da questi certificati bianchi. Allora Campiotti, rimpercorrendo le cinque filiere energetiche di cui abbiamo parlato ieri, le chiedo proprio quali sono le possibili soluzioni. Allora cominciamo con la prima filiera di cui abbiamo parlato, lo spreco alimentare. Questo ormai è un problema enorme. Benissimo, allora cerchiamo eliminare tutti quei prodotti, pomodoro, peperone, zucchine, che rimangono semplicemente sul terreno, non vengono più raccolte perché a un certo momento viene detto che non conviene più raccoglierle. Convertire quindi queste... al 20%. Ok, e quindi bisognerebbe cambiare coltivazioni in questo caso? Cambiare coltivazioni oppure bisognerebbe adottare dei tempi di raccolta che siano ottimali con i tempi del mercato. Questa è una cosa fondamentale che non costerebbe molto realizzarla. Poi abbiamo la filiera della grande distribuzione. La grande distribuzione si porta via un ulteriore 20% di spreco. Pensate soltanto alla quarta gamma. I prodotti di quarta gamma sono quelli che noi troviamo... L'insalata già lavata e messa nel sacchettino, insomma, pronta da consumare. Che una fogliolina sia leggermente ossidata, viene buttato tutto il prodotto. C'è uno spreco enorme. In questo è importante comunque la comunicazione, cioè è molto importante far conoscere ai consumatori che una fogliolina non crea questi enormi danni. E poi abbiamo le famiglie. Le famiglie, esatto, purtroppo sprecano almeno un 15-16%. E tra l'altro proprio recentemente in Inghilterra hanno deciso di modificare le date di scadenza sui prodotti perché inducevano le famiglie a buttare via roba che era ancora buona da mangiare. E voi pensate che i certificati bianchi possano aiutare, premiare in questo caso? Quindi bisogna inventarsi un sistema per far sì che chi mette queste buone pratiche in atto possa ricevere dei certificati bianchi, certo, giusto? In fondo non ci vorrebbe molto, insomma. Ecco. Questo tema è interessantissimo, abbiamo il tempo limitato, andiamo sul secondo punto. Materiali plastici, abbiamo parlato di quasi 100.000 tonnellate di plastica usata per fare delle serre. Qui che cosa si può fare per ridurre gli sprechi? Qui in questo caso sarebbe anche molto più semplice. Invece di utilizzare dei materiali plastici che possono durare un anno, sarebbe sufficiente utilizzare dei materiali plastici che durano 3 anni. Oppure addirittura potremmo utilizzare, soprattutto per le coltivazioni in campo, invece di quella cosiddetta pacciamatura, cioè lo strato di plastica che viene steso sul terreno. Esatto, possiamo utilizzare anche dei fogli di plastica biodegradabili e soprattutto dobbiamo riciclare questa plastica. Sistemi serra, terzo filone. I sistemi serra, molto semplice, noi abbiamo almeno 30.000 ettari di serre, ne abbiamo già parlato. Bene, possiamo realizzare delle serre, per esempio, che invece di utilizzare gasolio per il riscaldamento o energia elettrica per il raffreddamento, potremmo utilizzare biomassa per il riscaldamento e potremmo utilizzare il fotovoltaico per il raffreddamento durante l'estate, quando i picchi coincidono perfettamente con l'intensità di radiazione solare, certo, e quindi con la produzione fotovoltaica. Certo. Altro punto, chimica sostenibile, fertilizzanti e agrofarmaci. Come facciamo a ridurne i consumi? È molto semplice, anche qui utilizziamo molta agricoltura biologica. Noi possiamo diminuire sicuramente l'uso di questi di fitosanitari, di fertilizzanti, cercando di utilizzare anche delle pratiche agricole tradizionali. Ecco, per esempio, noi spesso utilizziamo chili di fertilizzanti di sintesi quando abbiamo il fertilizzante naturale. Pensiamo a tutti gli allevamenti zootecnici che abbiamo in Italia. E poi ci sono tutti i residui del verde urbano, quello dei parchi, e c'è anche la possibilità di intervenire sugli edifici con tetti verdi, pareti verdi. Abbiamo accennato ieri a queste cose, ora non facciamo in tempo ad entrarci. Le chiedo quanto verrebbe a costare questa trasformazione del sistema agroalimentare? Se noi ragionassimo in termini di certificati bianchi... Al costo attuale? Al costo attuale possiamo dire intorno ai 70 euro, è un costo medio... Ricordo che un certificato bianco corrisponde a un risparmiato una tonnellata equivalente di petrolio. Esattamente. Pertanto, considerando che noi contiamo di risparmiare 3 milioni e mezzo, quanto 3 costa? 3 milioni e mezzo è molto semplice, 3 milioni e mezzo per 70 euro possiamo arrivare, incredibile ma vero, a 250 milioni di euro. Questo è il costo che sopporterebbe lo Stato. Quale sarebbe il beneficio in termini di risparmio energetico? Il beneficio è presto detto, praticamente c'è 1,5 miliardi di euro. Un miliardo e mezzo di euro in meno che la filiera agroalimentare nel 2020 dovrebbe sborsare per approvvigionarsi dell'energia. Energia, fertilizzanti e quant'altro. Ma l'altro vantaggio grosso qual è? Riusciamo a innovare tutto il sistema agroalimentare. Grazie Campiotti, allora buon lavoro. Ci fermiamo qui anche per stasera, appuntamento a lunedì. Buon fine settimana a tutti.